che odio il mondo. Su queste terre sconsacrate maledico tutto, tutto il creato. Affronto tutto con impavida destrezza, con una maschera che sfoggia saggezza. È solo un bagno di fango cicatrizzante, ma una terapia che non durerà. Fingo e tu lo sai, in questo giorno che dura da una vita, ti ho cercata l'altra notte, sai, ti ho cercata.